Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai mi conoscete abbastanza bene, sapete quanto io sia spesso critico nei confronti del sistema Stati Uniti, di come loro interpretano il sogno americano, le loro ascese, i loro ideali, il loro modo di vita, e poi, non so, i magnati del petrolio che fanno carriera e confinano con la carriera politica, anzi a volte arrivano alla Casa Bianca, oppure quelli che manovrano con il potere delle lobby l'economia mondiale, quelli che scatenano guerre, sovvertono governi, esportano la democrazia, influenzano ogni aspetto della nostra vita. Beh, oggi vi raccontiamo la vita di uno di questi uomini, che è un miliardario per nascita, però un miliardario particolare. Ha trascorso tutta la sua vita inseguendo i suoi grandi sogni, realizzando grandi cose, amando donne bellissime che non guasta, però vivendo contemporaneamente un grandissimo disagio interiore che ha condizionato tutta la sua vita. È un uomo che probabilmente, se avesse voluto, sarebbe potuto diventare presidente degli Stati Uniti, non lo ha fatto perché aveva paura di sporcarsi le mani, e non solo in senso figurato. Oggi raccontiamo la storia di Howard Hughes. La nostra storia inizia con il realizzarsi di un sogno americano, appunto quello del padre Howard Hughes Senior, che nei primi anni del Novecento inventa e brevetta un nuovo tipo di trivella con due coni rotanti, quelle che possono perforare anche le rocce più resistenti. È un'idea importante che fa di Hughes un milionario. Quando nasce il primogenito Howard Junior, siamo nel 1905, nasce un bambino il cui destino appare già segnato in positivo, un destino florido, sicuro, un bambino a cui non mancherà nulla nella vita. Howard Hughes è un ragazzino sveglio, appassionato di meccanica, smonta e rimonta tutti i suoi giochi, modifica la bicicletta applicandole un motore costruito coi pezzi di una caldaia a vapore. A scuola va bene, si applica con profitto, sembra avviato a una brillante carriera universitaria. Poi, tra il 22 e il 24, quando non ha ancora raggiunto i 18 anni, perde entrambi i genitori. La cosa positiva è che eredita un patrimonio di svariati milioni di dollari, deve abbandonare gli studi. Ovviamente la cosa negativa è il fatto di rimanere orfano di entrambi i genitori prima dei 20 anni. Entra in possesso di tutti i suoi beni e, come primo atto della sua raggiunta emancipazione, fa testamento, quindi evidentemente ha già presente, come dire, l'idea della morte. Non appena sarà possibile, dopo la mia morte, verrà creata una società dal nome Howard Hughes Medical Research Laboratory, che si occuperà di ricerca scientifica per lo sviluppo di antitossine e per la prevenzione e la cura delle principali malattie che affliggono il popolo degli Stati Uniti. Beh, nobile, no? Come idea, è un ragazzino di 18 anni, alto 1,93 m, magro, timido, che ha già però, come dire, un approccio mentale da adulto responsabile, anzi addirittura altruista, ma vuole che tutto sia organizzato, prestabilito nei minimi dettagli. Questa precisione però non è solo un aspetto positivo, perché fin da bambino vive la propria vita con una serie di manie, di comportamenti che rasentano la patologia ossessiva, compulsiva. È per esempio ossessionato dalla pulizia delle mani, se le lava fino al punto da ferirsele con il sapone, poi però trascorre interi giorni senza lavarsi e cambiarsi d'abito, non tocca le maniglie delle porte, quando mangia un piatto di legumi, fagioli, piselli, li dispone in fila in un numero prestabilito. Insomma, è veramente strano, e in più cerca di evitare qualsiasi contatto fisico con le altre persone. Insomma, pur essendo uno degli uomini più ricchi, più invidiati del paese, non è affatto una persona felice. malgrado le sue insicurezze, Howard Hughes è un ventenne, per esempio, che gioca molto bene a golf, che impara a pilotare gli aerei a 14 anni, ha la disponibilità economica ovviamente per fare tutto quello che vuole. Infatti le sue prime operazioni come capo della Hughes Tool Company, cioè la società di famiglia, sono quelle di nominare un amministratore di fiducia che possa seguire le sue attività finanziarie. Mr. Hughes, sono Noah Dietrich, mi hanno detto che l'avrei trovata qui. Dietrich, già, lei è un uomo in ascesa. Ho letto il suo curriculum e controllato le sue referenze. Lo sa cosa sto cercando? Beh, da quanto ho capito, lei sta cercando un comandante in seconda per la Hughes Tools. Uno che l'aiuti a gestire gli aspetti finanziari della sua azienda. Sì, sto cercando qualcuno che l'amministri e pretendo un ottimo lavoro. Senta, c'è solo una cosa che lei deve sapere. I miei genitori non ci sono più. I soldi sono miei. Quello che scelgo di fare con i miei soldi può sembrare una follia a quei figli di puttana di Houston. E sono sicuro che è così. Ma è ragionevole e come per me. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Quelle brave persone laggiù mi chiamano ancora Junior. Gli dica che sono Mr. Hughes adesso. Ci conti. Questo dialogo è tratto dal film The Aviator di Martin Scorsese. È uno dei tanti film dedicati alla vita molto controversa di Howard Hughes. Però se la sua vita è stata oggetto di sceneggiature cinematografiche, lui il cinema lo fa veramente, perché tra il 27 e il 30 produce e dirige tre film, di cui uno, Notti d'Arabia, è premiato col primo Oscar al miglior regista. Era Lewis Milestone il regista. Siamo nell'epoca del cinema muto. Hughes ha una grande ambizione: fare un film epico incentrato sul mondo dell'aviazione, che è l'altra sua grande mania, la sua grande passione. Il falco e il gabbiano. Nel 1927 Howard Hughes si butta anima e corpo nel suo film più importante, Hell's Angels, gli angeli dell'inferno. È un film di guerra in cui i combattimenti aerei sono uno degli aspetti più importanti. Bene, il film viene girato inizialmente senza sonoro, poi quando la produzione sembra arrivata al termine, il cinema cambia, arriva il sonoro e Hughes rigira buona parte del film, inserisce i dialoghi, inserisce una protagonista femminile, la debuttante Jean Harlow. Insomma, il costo del film lievita, diventando uno dei film più cari realizzati fino a quel momento. I costi così alti non dipendono solo dalla sonorizzazione, ma anche dalle spettacolari e particolari immagini dei combattimenti aerei. Voci provenienti da una sperduta pista d'atterraggio dalle parti di Van Nuys sussurrano che il giovane industriale texano Howard Hughes continua indefesso a profondere soldi nel suo epico film di guerra. Ed è veramente epico: 137 piloti, 87 aeroplani, 35 operatori, 2000 comparse. È un film epico in cui lo stesso Hughes vola con la sua cinepresa in mezzo a decine di aerei, creando scene molto spettacolari ma anche molto pericolose. E durante le riprese, per esempio, due piloti muoiono precipitando con i loro apparecchi. Il film arriva a costare quasi 4 milioni di dollari, parliamo degli anni della Grande Depressione, però ne incasserà 8, dando ragione a quello che ormai tutti hanno soprannominato The Aviator, l'aviatore. E lui è forte del successo ottenuto, continua la sua carriera nel mondo del cinema, produce altri due film. Uno si chiama Scarface, che poi verrà ripreso anni dopo da Brian De Palma nella famosa interpretazione di Al Pacino. E poi c'è un film western, Il mio corpo ti scalderà, in cui fa debuttare una giovanissima Jane Russell, una bellissima, e si confronterà per molti anni con Marilyn Monroe. E poi sono molte le star hollywoodiane a cui vengono attribuite relazioni amorose con Howard Hughes, per esempio Bette Davis, Ginger Rogers, Ava Gardner. Ma quella che più di tutte ha saputo probabilmente capire l'anima combattuta e fragile di Howard Hughes è stata Katharine Hepburn, che ricorda Hughes in un'intervista rilasciata molti anni dopo la fine della loro relazione. Povero Howard, era un uomo brillante e lo sa, era sordo, completamente sordo da un orecchio dall'età di 15 anni. E lui soffriva molto questa cosa perché non lo ammetteva mai in pubblico. Era un bell'uomo, ma non voleva apparire fragile. E la sua fragilità è stato ciò che lo ha reso eccentrico. I think it's what made Howard eccentric. Insomma, è un uomo fragile nel privato, ma forte nel pubblico. Acquisisce il controllo della RKO, la celebre casa di produzione cinematografica che lui gestirà per 10 anni, tra gli anni 40 e gli anni 50. E in questo periodo comincia a scegliere con molta accuratezza le produzioni cinematografiche. Insegue le sue idee, che sono radicalmente anticomuniste, e spinge molto spesso all'interno della sceneggiatura del film, insomma interferisce. Questo atteggiamento però non gli porta fortuna. All'inizio del 57 Hughes viene convinto a cedere la sua proprietà, guadagna diversi milioni di dollari, perché i soldi chiamano soldi, lo sapete, però in qualche modo deve concentrarsi su un'altra passione, ha bisogno di riscattarsi, e lui vola su aerei sempre più veloci, ovviamente costruiti da lui. Proprio durante le riprese di Hell's Angels, Howard Hughes inizia a lavorare sul progetto di un aereo ad ala bassa. È un design rivoluzionario, alla carlinga in alluminio, al carrello retrattile, attenzione, ha una fusoliera studiata appositamente per ottenere il massimo della velocità. Con questo aereo, che si chiama H1 Racer, Howard Hughes stabilisce nel 1935 il nuovo record di velocità, arriva a 567 km orari. Tieni d'occhio la lancetta della benzina, il carburante è al minimo per limitare il peso. Due passaggi e basta, dopodiché hai solo vapori nel serbatoio, poi precipiti e addio. D'accordo. Fallo volare con calma, non preoccuparti della velocità e lascia stare i record oggi. Vorrei che lo facessi pilotare a qualcun altro, hai una ventina di piloti collaudatori a libro pari. Ehi, perché dovrei lasciare tutto il divertimento agli altri? Ci vediamo tra poco. Sei grande. Accidenti. Oddio. Addio stipendio, ragazzi. Corriamo. Quando il motore dell'aereo si spegne dopo aver stabilito il record di velocità, precipita verso terra, l'aereo è solo, l'abilità di Hughes riesce a trasformare la caduta in una planata e termina la sua corsa in un campo di barbabietole. E questo non è che il primo di una serie di incidenti aerei che caratterizzeranno la vita di questo milionario americano, anche perché gli aerei vuole sempre collaudarli lui per la sua nuova società che si chiama Hughes Aircraft. Infrangendo tutti i record, Howard Hughes supera i più folli sogni di Jules Verne. Giro del mondo da New York a New York in 4 giorni, battendo di oltre 3 giorni il precedente primato di Wiley Post. Col ritorno rapido e sicuro del suo monoplano Lockheed, Hughes ha scritto una nuova pagina nella storia dell'aviazione. Un audace aviatore, un vero pioniere delle rotte aeree mondiali. Il 14 luglio 1938, dopo meno di 4 giorni di viaggio, Howard Hughes atterra a New York dopo aver compiuto a tappe il giro del mondo. E da questo momento è un personaggio pubblico, al centro dell'attenzione dei media, non solo per le sue relazioni amorose con le attrici di Hollywood, ma soprattutto per essere un imprenditore innovativo che porta avanti con successo quello che già tutti chiamano il sogno americano. L'aeronautica diventa il principale obiettivo di Hughes, che ha una forte liquidità ottenuta intanto dalle eredità, ma grazie soprattutto alle produzioni cinematografiche. Compra la seconda linea aerea nazionale, la TWA-TWA, entra insomma in diretta competizione con i leader che sono la Pan Am. Lui mantiene il controllo della TWA fino al 66, quando deve cedere la compagnia aerea per un conflitto di interessi, e la cede a una cifra piuttosto interessante, 547 milioni di dollari. Oggi è fallita questa compagnia, come tante altre, dopo il crollo delle torri gemelle del 2001, ma le attività di Hughes legate all'aviazione non sono terminate, perché nel 41 gli Stati Uniti entrano in guerra. Hughes, che è un vero patriota, vuole dare il suo contributo progettando nuovi aerei. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la storia di un re Mida dei nostri tempi, Howard Hughes. È uno che veramente trasforma tutto quello a cui si dedica in una fabbrica di soldi. È un uomo di successo, è un playboy amato dalle più importanti attrici negli Stati Uniti. È un uomo che apparentemente è sicuro di sé e in realtà invece nasconde un animo fragile, mentalmente instabile, pieno di manie, di ossessioni che ne condizionano la vita, che rischiano sempre di portarlo all'autodistruzione. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lui decide di mettere la propria passione per l'aeronautica al servizio del paese e inizia a progettare due diversi modelli di aereo, uno da trasporto e uno da combattimento. Gli elefanti bianchi possono davvero volare? È la domanda che tutti si pongono. Ecco la carena dell'aeroplano più potente del mondo, una vera nave volante fabbricata da Howard Hughes. 66 metri di lunghezza, torreggia più alto di un edificio di 5 piani. Si devono tagliare i cavi dell'alta tensione per trasportarlo da Culver City fino al Pacifico a 45 km di distanza. Spostare un carico di 60 tonnellate è un'impresa d'alta ingegneria. Ma dovete chiedervi, è immaginabile che qualcosa di così grosso possa mai volare? Eh sì, c'è sempre un po' di scetticismo attorno a lui. L'Hercules H4 è un gigantesco aereo da trasporto. È progettato per il trasporto di truppe, di mezzi dell'esercito. Praticamente sostituisce le navi. Proprio per la sua grandezza, però, presenta da subito tempi di progettazione molto lunghi. I motori sono a elica, ci vogliono 8 eliche per sollevare un aereo che è lungo 66 metri, ha un'apertura alare di 96. E con queste dimensioni veramente sono in molti a chiedersi se l'aereo realmente potrà volare. E così passa il tempo, la guerra finisce e il governo rinuncia all'acquisto di questo aereo. Però Howard Hughes non demorde, continua a finanziare la costruzione del primo e unico esemplare di quello che tutti chiamano la papera di legno, l'aereo che ancora oggi è il più grande aereo a elica che sia mai stato costruito. Questo velivolo compie il suo volo inaugurale nel novembre del 47, decolla dalla baia di San Francisco, sarà il suo unico volo. È un aereo che ha rappresentato una sfida per Hughes, soprattutto contro se stesso, un altro sogno visionario che il miliardario ha voluto realizzare a tutti i costi, pur sapendo che per quell'aereo non ci sarebbe mai stato un futuro. E se possiamo considerare questo un colpo d'ala per la tenacia, però c'è un'altra disavventura che colpisce Howard Hughes ed è legata alla sua passione per gli aerei. Questa volta questa disavventura avrà conseguenze molto gravi. 7 luglio 46, Hughes decolla dalla sede della Hughes Aircraft a Culver City, vicino a Los Angeles. Anche in questo caso la progettazione dell'aereo HF-11 è iniziata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il governo aveva già cancellato l'ordine di 100 aerei proprio per la fine della guerra, ha continuato a sovvenzionare il progetto per realizzare il prototipo, però la Hughes Aircraft proprio per questo progetto è finita anche sotto inchiesta per aver corrotto alcuni esponenti del mondo politico per ottenere i fondi dal governo. Poi c'è una famosa audizione davanti alla commissione di inchiesta. Hughes ribalta le accuse. Adesso c'è un solo modo per sotterrare i dubbi e le polemiche: bisogna dimostrare che l'aereo vola e che è affidabile. Howard, riportiamola a casa. Il tempo programmato di 1 ora e 45 è scaduto. Fa rotta per 090. Dammi altri 10 minuti. Messaggio ricevuto. Negativo, Howard. Riportala a casa. Ok, ok. Faccio rotta per 090. Mi preparo a scendere. Cosa c'è, Howard? Caduta dalla destra! Sto perdendo il motore destro! Howard, riduci i motori a 1000! Sto andando giù! Non ce la faccio, non ce la faccio! Questo questa volta le cose si sono messe male. Dopo 2 ore di volo, uno dei motori cede di schianto. L'aereo perde quota, precipita tra le case di Beverly Hills perché cerca di atterrare in un campo da golf. Howard Hughes non muore, ce la fa, rimane gravemente ferito, ha ustioni sul 60% del corpo, è pieno di fratture e le cure si protrarranno per mesi. I medici, per attenuare i dolori provocati dalle ferite, cominciano a somministrargli grandi quantità di morfina. Lui sopravvive, ma i segni di quell'incidente rimarranno per tutta la vita. Ma soprattutto la morfina e le altre droghe diventano i suoi compagni di viaggio. Il colpo questa volta è duro. Il grande produttore, il playboy dalle mille fidanzate, l'imprenditore di successo e l'aviatore spericolato sono un ricordo. Tutto questo lascia il posto a un uomo segnato fisicamente e soprattutto mentalmente. Tutte le sue insicurezze cominciano a prendere il sopravvento. E così nel 47 inizia la seconda vita di Howard Hughes. È una vita diversa dalla prima, perché lui non ha più l'entusiasmo, l'intraprendenza nel costruire qualcosa di nuovo. Insomma, l'eroina, lo sapete, la morfina, insomma tutti quei derivati, per prima cosa ti riducono proprio la voglia di vivere, le ambizioni, la voglia di esserci, di combattere. Oltretutto è molto cinico nei confronti della vita e anche di una società americana che troppo spesso lo ha criticato invece di riconoscere il suo genio. Lui è un uomo che pensa a amministrare i propri guadagni, a speculare su nuove opportunità in un mondo spregiudicato ai limiti della legalità. Lui usa come linguaggio l'unica arma che non gli è mai mancata: il denaro. Si aprono nuovi mercati, nuove opportunità. Per esempio Las Vegas è proverbialmente un posto proficuo per chi ha dei soldi da investire. Così nel 66 Hughes, che sta alloggiando per il giorno del ringraziamento al Desert Inn, gli viene chiesto di lasciare l'hotel. Tenete conto che lui, per combattere le sue manie, in questo caso l'agorafobia, aveva prenotato per sé gli ultimi 2 piani dell'albergo. Lui si secca, si infastidisce, fa quello che tutti noi diciamo nelle battute: ah sì, mi dici di andare via e io ti compro. Fa proprio questo, acquista l'hotel e poi anche altri e poi dei casinò a Las Vegas. Insomma, dal 66 al 76 lui vive spostandosi da un albergo all'altro in posti come Boston, Nassau, Londra, Acapulco, Vancouver. Queste sono le sue residenze. Smette di apparire in pubblico e concede solo interviste al telefono. Il suo patrimonio è arrivato a 2 miliardi di dollari, è l'uomo più ricco d'America, fa affari con la CIA, frequenta dittatori come Somoza, politici come Nixon e viene coinvolto con lui indirettamente nello scandalo Watergate, però è in preda di manie ossessive. Muore nel 76 per insufficienza renale mentre è in volo, guardate un po' il caso, sopra il Golfo del Messico. Quando i medici constatano il decesso, trovano un vecchio di 42 kg in pessime condizioni igieniche, con le unghie lunghissime, non se le tagliava più da diversi anni, con aghi da iniezioni inglobati nei muscoli delle braccia, spezzati da lui stesso durante le sue iniezioni di oppiacei, perché lui ormai era un tossicodipendente. Chi è Howard Hughes? Un uomo come gli altri, solo un po' più ricco e riservato. E questa è la frase che ha lasciato in un'intervista del 72, che è l'ultima testimonianza di Hughes, di un aviatore, di un D'Annunzio americano, molto più americano, insomma è molto meno profondo e intelligente, che però ha fatto di Wall Street il suo tempio, il suo vittoriale, se vogliamo perseguire nel paragone. Rimane di lui il ricordo attraverso i film che gli sono stati dedicati da un cinema che è stato per lui una passione che è stata superata solo dalla sua grande voglia di volare sempre più in alto, sempre più veloce. colpi d'ala verso l'alto, ma anche, ahimè, verso il basso, perché poi il successo devi anche saperlo difendere. Noi vi aspettiamo con altre storie, se volete segnalatevi a mail al falcoelgabbiano@radio24.it, se conoscete una storia che volete che io racconti, e interagite con me sul sito, sui miei social Facebook, Twitter, su quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.